Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao bambina. Un bacio ancora. Ciao. E poi per sempre ti perderò. Ciao. Come una fiaba. L'amore passa. C'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma mentre piove piango con te. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora, e poi per sempre ti perderò. Come una fiaba, l'amore passa. C'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao bambina, non ti voltare. Non posso dirti, rimani ancora. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao.